弟。

When the world is filled with thunder and the skies are peaceful above, bring the beautiful once again. We know the wonder of the magic power of love. Maria, basta in mezza via, seduto pa' vedere. Non trovo l'ora e pace, ma la te faccia giorno, sempre che stacca attorno, sperandoci a parlare. Oi Marie, quanto suon capere cu te. Oi Marie, quanto suon capere se per te. Fammi dormire, oi Marie. Suona chitarra mia, Maria sei scettata, una bella serenata, facimmola sentire. Oi Maria, quanta suon che per dove te. Mamma dormì, abbracciate il nuvoco tutte. Oi Marì, quanto sogno che perdo fatte. Mamma dormì, oi Marì. Oi Marì, oi Marì, oi Marì, quanta sonne la bella te. Amami, abbracciata tu, perdo per te. Grazie. and I won't pull through without you by my side. I give Forse un uomo Amen e hang together Fiori in fiore, l'amore bello vicino a te, mi fa sognare, mi fa tremare, chissà perché. Intorno a me tutte rose viole. Il mio cuore innamorato non lo posso più frenare. Io non so cos'è, c'è quel... ma il mio destino è cieco e non lo sa. E non ma le ali le ha bruciate. My mind, my soul, you bought it back. Was lost, but you took me home. You gave me hope, needed me. You needed me. Thank you very much. Thank you. Thank you.

Oh, Thank you.